24, i gialli della storia. Oreste Leonardi, maresciallo dei carabinieri, 52 anni, Domenico Ricci, appuntato dei carabinieri, 44 anni, Francesco Zizzi, vice brigadiere di polizia, 30 anni, Raffaele Iozzino, agente di polizia, 25 anni, Giulio Rivera, agente di polizia, 24 anni. Sono gli uomini della scorta di Moro uccisi da un comando delle BR all'incrocio tra via Fani e via Stresa, a Roma, il 16 marzo del 78. La strage di via Fani per tutti è l'inizio dell'incubo dei 54 giorni del sequestro Moro nella prigione del popolo delle Brigate Rosse. Questa invece è la storia di quei 5 agenti, poliziotti e carabinieri, che hanno dato la loro vita per proteggere il presidente della Democrazia Cristiana. Protagonisti involontari di una tragedia che ha segnato per sempre il nostro paese, eroi del quotidiano, dimenticati troppo in fretta. E ricorderemo quegli uomini attraverso il racconto dei loro parenti: Carmela, sorella di Giulio Rivera, Adriana, sorella di Francesco Zizzi, Vincenzo e Ciro, fratelli di Raffaele Iozzino, Maria, moglie di Domenico Ricci, Ileana, moglie di Oreste Leonardi. Ci dicevano a fare la loro buona giornata di lavoro, assicurando la massima protezione all'onorevole Moro. Quella mattina ha sostituito un suo collega. Quello era il primo giorno, il 16 marzo, primo giorno di questo servizio per mio fratello. Lui sapeva il pericolo che correva. Lui era molto preoccupato e come diceva sempre: stai tranquilla, tu pensa ai bambini. Il 16 marzo mio marito, come al solito, si è alzato, mi ha portato il caffè a letto, questo è, e poi stava per uscire, è tornato indietro e ha aperto un'anta dell'armadio in alto. Gli ho detto: che fai? Dice: prendo le pallottole. Dico: perché prendi le pallottole? No, così le prendo. Siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile. Io quella mattina stavo tra i campi a aiutare mio padre. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un comando di terroristi. C'è la radiolina accesa, purtroppo quella mattina intorno alle 8:30, alle 9, interrompe la trasmissione per dare l'annuncio di questo sequestro di Aldo Moro. Vi sono 4 morti, mi dice. Più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. Guardate i colpi, puoi andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi sparati evidentemente con mitra, con traditori, il corpo di un altro di questi. La casa si è riempita di gente e poi non ero più di là che di qua, perché proprio tra iniezioni, tra Valium, medicinali che prendevano, davano. Il dolore per me mi era crollato il mondo addosso, non capivo più niente. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua. Ecco il corpo di un altro probabilmente dei componenti della scorta. Dopo poco invece purtroppo si è saputo veramente come erano andate le cose, che quelli della scorta, i ragazzi e mio marito, erano morti tutti. Quel giorno, quando ho saputo il fatto, io avevo mia moglie incinta. Era, diciamo, subito detto: vado a casa, vado a essere, diciamo, che mia moglie stava in attesa. Quando sono arrivato lì l'ho visto piangere, ho detto: che è successo? Dice: sai che è successo, che è morto tuo fratello. Ho detto: possibile? E allora, accendendo la radio, l'ho saputo. E dopo io sono partito per Roma, basta. Il 18 marzo del 78 a Roma si celebrano i funerali di Stato con una folla commossa e tutte le maggiori autorità. Poi c'è stato il funerale, che penso se lo ricordano tutti, per noi è stato un incubo tremendo. Del funerale a Roma una grande confusione, perché stavano tutte e 5. Cosa ricordo? Ricordo un sacco di giornalisti, telecamere e le grida di noi parenti. Molti erano molto, anche molto arrabbiati. Vedendo i politici, Leone, il presidente, guardandoli ho avuto una grande rabbia. Una grande rabbia perché vedevo queste persone che, dentro di me, che non gli interessava la morte di quei cinque. Questo è quello che vedevo io. E poi la grande, quella disperazione, guardavo i figli, li abbracciavo. Non pensavo a me e ai miei figli, ma pensavo, per quanto me li stringevo, pensavo a mio marito che ne avrebbe visto più i figli, che i figli ne avrebbero visto più il padre, che l'adoravano. La notte non sono riuscita a dormire nel mio letto, ho passato la notte in poltrona. La mattina dopo, prestissimo, mi sono alzata e sono andata al cimitero per conto mio, per stare 5 minuti in pace con mio marito. Se solo per un attimo chiudo gli occhi e vedo quella bara con quel corpo, non è una cosa piacevole. Io a casa non ho la foto con la divisa, non la sopporto. Fin qui la tragedia di Via Fani, funerali di Stato, lo shock del paese e la disperazione delle famiglie. Ma chi erano Ricci, Rivera, Leonardi, Zizzo e Iozzino? Da dove venivano? Quali erano le loro storie? Sentiamo Maria, la moglie di Domenico Ricci. Ci siamo conosciuti con i miei genitori a casa nostra. Sai, dice, tu mi piaci. Una volta era così, che si, l'uomo che andava presso la ragazza e dice, tu mi piaci, dice, vorrei fidanzarmi con te. Io veramente l'avevo guardato che non avevo nessuna intenzione. E poi vedendo che come ragazzo, mio padre mi ha detto che come ragazzo era una brava famiglia, e di lì siamo stati fidanzati 8 anni circa e ci siamo sposati. Come marito era un uomo adorabile. Quando è nato questo bambino, per lui era un dono di Dio intoccabile. Ogni volta che andava a parlare con le maestre gli portava una rosa. Lui ha continuato sempre a fare il carabiniere, poi ha fatto il corso da motociclista. Poi è venuto a Roma, ha fatto il motociclista e poi ha fatto la radiomobile e poi è andato a fare la scorta, che è stato chiamato a fare la scorta al Domoro. Moro era una persona molto alla mano, molto semplice. Io, dice, ci sono andato con tanta agitazione, ma invece era una persona, diciamo, che si può parlare come parlassi a un padre. Lui è rimasto contento subito di questo servizio, ne era orgoglioso, quando ne parlava sembrava come se avesse vinto un Ternalotto. A descrivere il carattere di Francesco Zizzi e la sorella Adriana. Franco era un tipo molto socievole, molto amabile, un ragazzo duro. Era anche scanzonato, allegro. Noi frequentavamo l'istituto magistrale insieme, facevamo la spola fra Fasano e Conversano. E in macchina era più allegro, era quello che ci teneva compagnia, che ci faceva sorridere la mattina prima di entrare in classe. E lui era quello che non prendeva mai i libri, non studiava fino all'ultimo momento e quindi ci alleggeriva un po' il peso del viaggio. Amava lo sport, in particolare la caccia. E poi aveva una passione. Lui amava cantare. E si esibiva anche nel canto e anche si esibiva con la chitarra. Ricordo quando eravamo adolescenti, una volta mi diede uno schiaffo solo perché un ragazzo mi aveva guardata. Allora questo mi è rimasto nella memoria. Decise di entrare in polizia perché così avrebbe provato. Fu quasi per una prova. Non c'è stato un progetto di vita, cioè all'inizio quando era giovane, quando era adolescente, ragazzo, non ha mai detto nella vita voglio fare il poliziotto. E ha avuto come prima sede Parma. È stato a Parma un annetto, il 77. perché già all'inizio del 78, nel febbraio, era già a Roma, era già stato trasferito. Chiese questo trasferimento perché era fidanzato con una ragazza di Latina, si chiamava Valeria, e probabilmente aveva un progetto di matrimonio. Oltretutto quelli erano anni difficili, nessuno forse voleva prestare servizio a Roma, erano già gli anni di piombo. Ottenne il trasferimento e fu la fine. Giulio Rivera era un tipo socievole e disponibile, come raccontano i fratelli Angelo e Carmela. Era un tipo scherzevole, si faceva volere bene da tutti quanti, era un... sempre scherzevole, ecco. E lui lavorava con me, lavorava quando eravamo tutti e due giovani, e è stato anche quando mi sono sposato e stava insieme con me. E diciamo, i miei figli lo volevano molto bene, gli facevi i regalini. Gli piaceva la compagnia, gli amici, e quindi le cenette con gli amici. Era molto molto affezionato sia a noi, alla famiglia, ma anche agli amici. L'hanno chiamato per il militare, il marino. Dopo lui, visto che doveva fare 24 mesi in marina, diceva faccio la domanda in polizia. E così l'hanno preso, è venuto giù, ha detto va. Angelo, sai che mi hanno chiamato in polizia, dice che cosa mi dice tu? Beh, vai, dice, meglio in polizia che in marina. Di Moro diceva che le voleva bene e basta, tante cose, non è che, che lo rispettava come figli, dice dopo chi ci toccava a noi, dice facciamo la scorta, chi ci tocca, un onorevole non lo toccherà più, non lo tocca nessuno. Dice chi è che lo può toccare in questi casi qui? Ma dice che lo voleva molto bene, lo rispettava più dei suoi figli. Anzi, voleva più bene a tutti quanti della scorta, era proprio Giulio che lo diceva che ci scherzava e lo voleva bene. Ciro e Vincenzo, fratelli di Raffaele Iozzino, lo descrivono così. Noi eravamo una famiglia tranquilla e modesta di campagna, un paesino piccolo che aveva pochi contatti con l'esterno e quindi viveva unita dalla mattina alla sera. Lui si interessava appunto della scuola, per esempio. Lui, quando io ho completato gli studi di scuola media inferiore, mi ha consigliato di iscrivermi alla scuola media superiore, mi ha accompagnato, ogni tanto veniva a parlare con gli insegnanti. C'era in lui una speranza che diceva che doveva praticamente portare a Moro alla Presidenza della Repubblica. E quindi questo gli faceva piacere perché diceva che il servizio migliorava. Ileana, la moglie di Oreste Leonardi, racconta il primo incontro con suo marito e come è diventato l'orgogliosa guardia del corpo del presidente della DC. Mio marito era una persona un po' severa, ma severa anche con se stesso. Mio marito era torinese. E orfano di guerra, ha perso il papà che faceva il secondo ginnasio e ha finito, non è più andato a scuola e si è arruolato nell'arma dei carabinieri. E ha fatto diverse sedi, poi è arrivato a Viterbo dove l'ho conosciuto io, era carabiniere paracadutista, in più faceva moltissimo sport, era istruttore di judo, di nuoto. E ci siamo conosciuti a una festa di carnevale e ci siamo piaciuti subito. Infatti era carnevale, l'anno dopo a dicembre ci siamo sposati. Lui era innamorato, si può dire, del presidente Moro. E lo trattava come fosse suo figlio. Lo coccolava e cercava di togliergli tutte le cose un po' fastidiose. E infatti quando andavano all'estero, l'onorevole Moro voleva che mio marito dormisse nella stanza accanto alla sua, perché senza di Oreste si sentiva perso. Mi ricordo che tornando da Washington, mio marito era sconvolto perché c'era stata una storia poco piacevole con Kissinger, che praticamente aveva detto a Moro che poteva pure ritornare in Italia, come per dire che Moro era comunista, insomma. E loro erano rimasti malissimo. Infatti Moro era rientrato da Washington in anticipo. Nei giorni precedenti all'agguato c'era tensione nell'aria e questi eroi erano consapevoli del rischio che stavano correndo. Un periodo fa, non ricordo quanti mesi prima, 3-4 mesi, non lo so, c'era qualche una busta minatoria con un proiettile, pare che è una cosa del genere. Siamo andati, ne ha parlato pure qualche quotidiano, qualche giornale. Però niente di più, cioè lui non amava dire delle cose proprio per non mettere in preoccupazione la famiglia. Prima che è successa la tragedia, lì ho cominciato un po' a capire veramente il pericolo, perché alcune volte lì mi raccontava, sentivo un po' le discussioni e poi sentivo che mi raccontava che prima di arrivare al portone le ragazze che gli dicevano: ecco il servo dello Stato, che ci fai con quel pezzo di ferro? Io ho sentito una sera che eravamo a cena con degli amici che lui diceva che erano tutti spiati e che avevano trovato un covo nel quale c'era perfino scritto come era composta la nostra famiglia. Nel febbraio del 78 è venuto a trovarmi, è stato 3 o 4 giorni a casa mia, io avevo una bambina piccola di appena 8-9 mesi e ho un ricordo bellissimo. Lui usciva di casa, uscì un giorno di casa, comprò un pupazzotto di peluche e glielo portò e si divertiva a giocare con lei con questo. Quindi, nonostante la tensione, un tentativo di vivere una certa normalità in anni che non sono per niente normali. E la storia di 5 agenti morti a Via Fani e di tanti altri caduti per il terrorismo rosso e nero. Ma per i familiari, dopo i funerali di Stato, il dramma e lo strazio non sono ancora finiti. C'è l'ultimo ritorno a casa e poi ci sono i 54 giorni di Moro nelle mani delle BR. Anche Papa Paolo VI nel suo Angelus si rivolge ai sequestratori e anche i familiari delle vittime sono vicini alla famiglia Moro. Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. L'abbiamo trepidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi giudici unilaterali e carnefici. Noi siamo stati partecipi del dolore della famiglia di Aldo Moro, che ha dovuto sopportare in più rispetto a noi l'angoscia di quella prigionia, di quei 55 giorni di prigionia. Io poi sono pure andata a trovare la signora Moro, ma purtroppo anche lei, poveretta, stava in uno stato tremendo. Io le dicevo: signora, vedrà che lo rilasciano. E lei mi diceva che era convinta che non l'avrebbero mai rilasciato. Il 30 aprile del 78 la famiglia Moro riceve la telefonata di Mario Moretti. La proposta è uno scambio tra Aldo Moro e altri brigadisti detenuti, ma non tutti i familiari sono d'accordo a trattare con i terroristi. È venuto una volta un altro giornalista e ha detto: signora, cosa ne pensa lei dello scambio? Allora gli ho detto, dico, non riusciva a capire, dice no, dice siccome vogliono, parlano che la salvezza di Moro è di scambiare con 13 terroristi. E io gli ho detto, dico, sarebbe giusto di farlo, è giusto farlo. E poi quando sono usciti, prima serva Moro, prendono Moro e poi loro li fanno uscire quell'altro. E gli dico, gira l'angolo e li riprendono. Questa era una mia idea, diciamo una mia idea da una madre e moglie e ancora piena di dolore e di disperazione, perlomeno per salvare Moro. Certamente avrei voluto che Moro fosse salvato, però pensavo e lo penso tuttora che non si poteva trattare con quella gente. Per lo Stato sarebbe stata una sconfitta e anche per i morti sarebbe stato come uno schiaffo. Abbiamo desiderato che fosse liberato. Con uno scambio, se era questo l'unico modo. No, la trattativa no con i terroristi perché non era giusto, però che lo salvassero sì, che trovassero altre scappatoie, altri sistemi per poterlo salvare, su questo non ci sono dubbi, insomma, perché d'altronde questi erano morti, non è che qualcuno poteva risuscitare pur ammazzando Moro. Il 9 maggio del 78 Franco Tritto, allievo amico di Aldo Moro, riceve questa telefonata da Valerio Morucci. Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Via? Caetani, Lizia Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente. E non può. Non può? Dovrebbe per forza. Per cortesia, no. E ho sentito alla radio la mattina che Moro era stato ritrovato in una macchina in via Caetani. È stato tremendo, un colpo tremendo, guardi. Sinceramente sono stati degli animali, eh. Quindi far rivedere sta figura di Moro in quella Renault rossa, in quella maniera, non è stata una cosa piacevole. Sentendo in televisione ho pianto tanto quanto ho pianto per mio marito e a quella famiglia disperata, perché pensavo anche che loro, la signora Moro, aveva anche il pensiero nostro. Il 9 maggio è tutto finito. Moro giace nel bagagliaio di una Renault rossa in via Caetani. Per l'Italia intera niente sarà più come prima, eppure per le famiglie Ricci, Leonardi, Rivera, Iozzino e Zizzi ora è necessario provare a tornare a vivere. Hanno fatto una cosa che hanno distrutto delle famiglie e dolore a chi resta, diciamo, per familiare perso. Mio padre pure, diciamo, da quell'evento, diciamo, non è che si è ripreso, diciamo, comunque l'ha sentito una botta pesante. Io aspettavo sempre che arrivava lui, cioè, da Roma, viene a prendere a Napoli o che ne so, a Castellammare. E io a volte non mi sfugge ancora, diciamo, io forse sto ancora a Roma a fare servizio. Dentro questi anni c'è stato tanta disperazione, tanta rabbia, tanta angoscia. È stata una lotta veramente atroce, una lotta, è stato un calvario che non finiva più. Pensavo proprio che non è, a momenti, c'erano dei momenti che dicevo non so se gliela faccio. Io avevo fatto però una promessa a mio marito, ho messo una foto di tutti e quattro dentro il fornetto, lì alla cappella, al suo loculo. Gli ho detto: Mimmo, tutte e quattro siamo qui, ti prometto che ti porto avanti i figli come li volevi tu. E questi sono stati per me tutti quegli anni, perché io ho voluto portare avanti i figli come voleva lui. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.